Così dice il Signore: scendi nella casa del re di Giuda ed ivi pronunzierai questa parola. Dirai: ascolta la parola del Signore, o re di Giuda che siedi sul trono di Davide, tu e i tuoi ministri e tutto il popolo che vengono a queste porte. Così dice il Signore: agite con rettitudine e giustizia e liberate il derubato dalla mano dell'oppressore. Non angariate e non opprimete il forestiero, l'orfano e la vedova. Non spargete sangue innocente in questo luogo, poiché se voi metterete in pratica questa parola, allora entreranno per le porte di questa casa i re che siedono il luogo di Davide sul suo trono, che cavalcano carri e cavalli, essi e i loro ministri e il loro popolo. Ma se non ascolterete questa parola, io giuro per me stesso, oracolo del Signore, che questa casa sarà data alla distruzione. Sì, così parla il Signore contro la casa del re di Giuda. Come un Galaad tu sei per me, una vetta del Libano. Eppure ti ridurrò un deserto, città senza abitanti. Io santificherò contro di te i distruttori, gli uomini e i loro armenti, e distruggeranno i tuoi cedri eletti e li getteranno al fuoco. Molte nazioni passeranno attraverso questa città e diranno l'una all'altra: perché ha agito così il Signore contro questa grande città? E risponderanno: perché hanno abbandonato il patto del Signore, Dio loro, e si son prostrati ad altri dei e li hanno adorati. Non piangete sul morto, né fate lamento per lui. Piangete, piangete per chi parte, che più non tornerà, né vedrà la sua terra nativa. Sì, così dice il Signore a Sallum, figlio di Giosia, re di Giuda, re al posto di Giosia suo padre: chi esce da questo luogo non vi tornerà più, ma nel luogo dove lo deporteranno, ivi morrà, e questa terra non rivedrà più. Guai a chi edifica la sua casa senza giustizia e i piani superiori senza diritto. Chi fa lavorare il suo prossimo gratuitamente e non gli retribuisce il suo lavoro. Che dice: mi costruirò una casa spaziosa e camere ventilate, che apre finestre e le intelaia di cedro e le pittura di rosso. Pensi forse di agire da re perché gareggi con il cedro? Tuo padre forse non ha mangiato e bevuto? Praticava però il diritto e la giustizia, perciò ebbe prosperità. Difendeva la causa del povero e del misero, e allora andava bene. Non significa forse questo conoscere me? Oracolo del Signore. Invece, non sono gli occhi tuoi e il tuo cuore se non per il tuo guadagno e per versare sangue innocente e per operare oppressione e violenza. Perciò così dice il Signore a Joachim, figlio di Giosia, re di Giuda: non faranno lamento per lui, ahi fratello mio, ahi sorella mia. non faranno lamento per lui: ai Signore, ai Maestà. Con sepoltura d'asino si seppellirà, trascinandolo e gettandolo fuori delle porte di Gerusalemme. Ascendi sul Libano e grida, sul Basan rimbombi la tua voce. Grida pure dagli Abarim, poiché son fatti a pezzi tutti gli amanti tuoi. Ti ho parlato quando tu eri tranquilla, tu dicesti: non ascolto. Questa fu la tua condotta fin dalla tua giovinezza. Non hai ascoltato la mia voce. Tutti i pastori tuoi li pascolerà il vento e i tuoi amanti andranno in prigionia. Allora arrossirai e ti confonderai di tutta la tua malvagità. Tu che abiti nel Libano, che nidifichi tra i cedri, quanto gemerai quando ti arriveranno le doglie, doglie di partoriente. Per la mia vita, oracolo del Signore, anche se Conia, figlio di Joachim, re di Giuda, fosse un anello nella mia mano destra, di là io ti strapperei. Io ti consegnerò in potere di chi cerca la tua vita e in potere di coloro dinanzi ai quali hai spavento, cioè di Nabucodonosor, re di Babilonia, e in potere dei Caldei. Io scaglierò te e tua madre, che ti ha generato, sopra una terra straniera dove tu non sei nato, ed ivi morrai. Quanto poi al paese dove essi desiderano ardentemente di ritornare, non vi torneranno. È forse un vaso spregevole da essere spezzato quest'uomo Conia, od uno strumento senza alcun valore? Perché sono scacciati lui e la sua discendenza e gettati in un paese che non conoscono? Terra, terra, terra, ascolta la parola del Signore. Così dice il Signore: scrivete che quest'uomo è senza figli, uomo che non ha prosperato nei suoi giorni, che nessuno della sua discendenza prospererà, nessuno siederà sul trono di Davide, né dominerà più in Giuda.